1, 2, 3, prova. Hola, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, 1, 2, 3, prova, cambio. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Attenzione, Torino, cambio. Zinco. Farfallino. Ti mi ha di bagurri tu sì. Canale 10 CQ10 chi è? Catalina! Ui, bene, sto uscendo di radio. Prova! Guarda per se c'ho rumori sotto. No, ma tu eri quello di prima che con quel fischio. Ero io sicuramente, va. Mira in Scandica che cosa? No, già stai uscendo bene. Io pensavo che eri giù a prenderti il caffè. Non mi avvisato, saremmo scesi insieme, ci siamo presi il caffè. No, ora non sono andato da nessuna parte, no. Beh, io ero KK. No, ma quando voi scendiamo ci prendiamo il caffè da Bruno. Ehi, no problem. Aspetta un attimo che devo controllare una cosa. Vabbè, fai tanto, io sto pulendo ultrasuoni adesso, sì che sentirai un po' di casino. Tutto un fruscio, sì. Beh, andava. Eia. Stavo controllando una cosa, aspetta un attimo. Che ne sto controllando le stazioni. Ecco qua. Che va. E stavo controllando un rosmetro, però non riesco a farlo funzionare. E perché? Ma funziona, un SX200M della Daimon. Non ho capito, stai cercando di far funzionare un rosmetro. Sì, non funziona, chi su va già va e funziona Andy, che rumore. E chi sta su, no, non funziona. È strano, perché è difficile che si rompano quelli. È difficile, purtroppo non funziona. E cos'è che non funziona? Qualsiasi cosa che tocchi non agisce. Ah, che watt praticamente non agisce. Né watt, né calibrazione, né stazionarie. Non misura nulla. È strano. Controllato là dentro. Ehi, eppure non c'è niente staccato. Magari qualche componente. Ehi, sicuramente. Aspetta, mi sono guigiato e mi sono fatto male alla schiena, vaffanguala. Aia. Oh signore. Hai visto, mi stava fischiando tutto quanto. Buh. Non zunfiano. Cosa? Che non funziona. Strano, molto strano. Avateci tu l'ecco, buh. L'ecco? C'avevi l'ecco, c'avevi. E non c'è più. E le palle dell'elicottero si sentono. Non lo so. Non va bene. Ma non l'hai più. Però ancora won. Ma cavagava. Andava bene. Hola. Incubato. Poco c'è un sole, Voi zanca. Voi zanca, su dolore, zanca. In là. Il maniaco di cinco si è sentito oggi, sa già in piazza Tola. Brigido, ci sei Brigido, fiorellino? Oh, non mi rispondi. Se ti avessi visualizzato il messaggio. Brigido, rispondi a zio. Sì, mi ha risposto sempre il messaggio. Fiore, ma se prendi ginnastica che... ma parkour sto facendo. Se prendi? Parkour. E se ti intendi Edo, gatta? Tanto mi piace poco, maiacco che... già in Piazza Italia, quasi... Piazza Garibaldi, i Sizzoni. Vai a cazzo, Ma la domenica non gli piace tanto perché ce ne sono pochi in giro. Le massaie. Ah, a lui gli piacciono le massaie, così è. Sì, dagli 80 in su. Con le calze bucate. Soprattutto. A Platamona ci va dopo le 7, perché dopo le 7 ci vanno, capito, le... quelle dopo i 70 in su, da prendersi un po' di fresco. E lui è lì col binocolo. Cazzo, pure il binocolo, ma non usa il bimbo. Binocolo elettronico bulbo, capito? Elettronico bulbo, ad alta definizione. Entra Rossi. Allora, ma voi fate finta di dedica col metal detector, invece è infrarossi, tanto va, capito, in spiaggia, qualche maniaco. Cazzo, di qui sto fruscendo la legge. Si lo sappi, io ti avevo telefonato e lui non ti ha pigliato lì. Ma hai visto com'era il tempo? Boh. Avete restituito però un po' di quelle nuvole così pecorelle là. Ho capito. Ma sei tranquillo che non è freddo. Il mare l'ho visto agitato da qua. Che magari probabilmente c'è anche vento. E in chi dà viene di più sicuramente. Tocca abusati dentro, a me non mi piace dentro, invece pure, ma come vedi che cosa bassendi, sai, passi meglio, quel poco tempo lo passi meglio. Infatti. È tutto abbandonato, mica Ernesto sta ricostruendo, sono già la prima soletta. Non ho preso un cazzo. Ernesto il 448 ha demolito, rifacendo. Cazzo, tutto l'orecchio è uno schifo. Primo pettine lì dove c'era il coso, la discoteca. Cioè, tutto abbandonato. Ma porca miseria, ma quando mai? Il schifo in 448 è torna a vendi e tutti lati lì, lo stesso, un peccato quei posti lì. C'è sulla spiaggia, un bar sulla spiaggia, i bar sulla spiaggia che non riescono ad andare a boh, non lo so, guarda. Ernesto, tocco in 448 e torna a vendi tutto. Ah, Ernesto veniva via via di Rugomune, non era Rusoio, no, era di Rugomune. Si occupava due a fare sopralluogo con ingegneri di geometri in Chivi. Quando era sarrato, che non era ancora demolito. Ernesto, che le ha consente il comune, da pure la sarà in gestione, sicuramente. Non era di Ernesto che su ristorante, no? Chi su era di Rugomune, veniva nei biliardi, a chi aveva venuto un tratto di passì. E vabbè, sempre di Ernesto era, comunque poi ha chiuso, semi abbandonato, abbandonato di Rudduto, ma lì non va niente, come fai a far andare, attività lì vanno solo d'estate, boh, basta. E stanno morendo anche d'estate, perché bene o male prima d'estate facevano concerti, teatralmente, fazziani di tutto la rotonda, cosa è che non fazia lì anni fa? Ogni anche da avere un concerto, c'erano le bancarelle e tutto il sassa di Farava. Tutto Morelli, Ma cosa vuoi ti dica? L'altro è di un comune di Sussu, e avranno abbandonato i Sussinchi. Invece il su di Ernesto era del comune di Sassari, sono sceso io a fare i sovralluoghi che ho portato l'architetto, cioè con l'architetto io lì, capito? Vera la dottoressa, Buru, e un sacco di gente ci siamo parati, abbiamo mandato Buru, abbiamo visto Buru a chi su guarda dove dobbiamo andare noi, da voi che andate a venire a mandare. Casino, vedi lì al Lido, quei bar che ci sono sulla spiaggia, quello è una miniera d'oro, secondo Garubiglia, non ti sei cosa sarebbe, a chi io non lo so cosa sarebbe, secondo me non vi sa fare queste cose. Cazzo arrivi nei ricontinentali, aprili e fai vedere come è tenuta. E io che tutto morendo, dei bar sulla spiaggia, ma ti rendi conto? Ma lo stavano dicendo anche loro, il sassarese non ha la mentalità imprenditoriale che hanno i continentali, hai capito cos'è il discorso? I continentali si arricchiano e fanno di là, invece i sardi non hanno la mentalità proprio imprenditoriale che hanno questi continentali, hai capito cos'è il discorso? Esattamente, c'è ragione. Ma appunto, vedi, se prendendolo, no? Durano quella stagione lì, boh, chi tu, non so che era, l'ultimo che ha pegliato lì a Lido, che ha sarrato e se ne è andato come stesso. Eppure è strano, perché sono marche che andrebbero tantissimo. Non so perché, Mi devi scusare, ma mi ero spostato a dare una mano alla 50, capito? Siccome voglio prendere quella storia là, come la metto la spedizione? Assicurata o no? Devi prendere quella storia là, ma da privato? No, da un altro lo sto prendendo, non è privato. Ma assicurato ti costa di più, capito? poi assicurato solo roba nuova e con fattura, perché sennò non rispondono i corrieri o le poste che siano. Allora, non assicurata metto. E io. Assicurato paghi di più, non so se è 5-6 euro in più, ed è, tra l'altro deve essere nuovo l'oggetto, non usato, nuovo, con fattura o scontrino. Allora se c'è da rimborsare ti rimborsano, ma se è roba usata, anche se tu fai assicurato, non ti rimborsa nessuno. E ho capito, già è nuovo. Ma cosa fai assicurata? Manco che tu sei, sarà in Italia, ma te, sì no? Yeah. Allora, cosa i pinti di là in più va assicurata? Quando vi pone uno di arrivi. Lucia. Dimmi. Oh lui. Sì, dimmi. Questo ha il numero della carta sua e bisogna caricargli la carta sua. Non so chi è. Media Globe. Sì. E come bisogna fare? Ma cos'è una posta IP? No, è una posta IP. E la dal tuo conto direttamente sul suo, entri nel tuo conto, avete l'app di Poste Pay, perlomeno io faccio così, e poi faccio ricarica carta. Ti chiede i numeri, gli estremi della carta da ricaricare. Ma non era meglio se me ne ripigliavano da ragazza mia? No, non è così, non è. Devi oppure vai al tabacchino e gli dai gli estremi della sua carta e carichi così. E faccio così, allora dopo che ti dica. Ha detto che faccio una procedura, va. Puoi caricare o dal tuo conto o dal tabacchino direttamente, mi serve una posta IP. E io entro dove ho la carta io, a delle poste, io sono una posta IP stesso. Io ho la l'app di Poste Pay, capito? Entri sulla tua carta e fai ricarica Poste Pay. Poi ti chiede se di caricare la tua o se di caricare altre carte. Io provo, se non vi riesco, se la piglia in gomma di vostra mai, ma l'altra battuta. Avanti, stampo, la storia. Vediamo un po', dai. Se no fai tramite tabacchino, se non c'hai l'app Poste Pay. Hola. Luca. Luca, ci sei? Fatto e poi. Luca, ci sei? Hola, c'è qualcuno qua?